140, sì, 80, 440 e 430, ma non esageriamo di tenere, ma non diciamo fesserie per la fretta. Dice che è più sedittivo, più... ma io non lo so perché non l'ho mai avuto. Infatti ho detto, io gli ho detto che non mi piaceva molto perché non ha molto del vintage, è tra il vintage e gli apparecchi di adesso, perché diciamo che è un vintage ma è 90, possiamo dire, non è di tanti anni fa, diciamo che c'ha molta plastica, è quello un po' che mi blocca. A me i vintage mi piacciono proprio perché sono massicci, c'hanno legno, c'hanno ferro, eccetera, sono massicci proprio quelli. Quello è più piccolo di un 140, ma lo già. Se stai parlando di quello che c'era Roberto, è Mobico, l'Inter. No, se vi annulla, lascia perdere. È più piccolo di un 140. Vintage in base sono come quelli che ho io, grandi, come quelli che conosci tu. No, no, visto, è un vintage perché è un vintage. Beh, se è uscito negli anni che è uscito, perché negli anni 90 siamo nel 2020, miei ragazzi, cioè non è che... È un 497, 497 e Multicom. Sì, sì, Multicom, non Multicom, scusa, Multicom, è quello lì, nero, l'ho regalato, tutto di plastica, che c'ha un po' bombato davanti, quello l'ho regalato a Gianni Capridue, c'era anche Gianni Capridue. E hai i pomelli piccolini, e poi quello lì che non mi piace, i pomelli che sono troppo piccoli. Mentre invece mi piace molto Lafayette, come si chiama, quello marrone, che adesso non mi viene il nome, ma ce lo sulla punta della lingua. Quello lì mi piace molto perché è pomelli grandi. Ma il Persa ti stai dicendo? No, no, stazione base, stazione da macchina. Ce l'aveva meccanico, Roberto Meccanico, come si chiama? Ma... il Lafayette MLS 200. Sì, quella l'ho data a Mauro, io a Mauro quello dei punti. Il cambio di un anno 48 normale, gli ho dato quella. Penso che ce l'abbia ancora, non so, l'MS 200. Sì, va bene, va bene. Ti ripeto, baracchini no, non mi interessa. Io ho base consistenti, però il Multicom non mi piace, un baracchino normale. Vai, ascolta, tanto invece io come ti sto arrivando con la radio dei massi, bene? Vabbè, io ti posso dare 9 di segnale, sto usando un Alan 48 vecchissimo. No, no, non mi interessa il segnale, la modulazione, com'è che ho fatto alcune cosettine, infatti devo passare dopo a prenderselo. Che ora siamo? Ma tu mi mandavo un messaggio e sarò già uscito al lavoro. Bene, no, la modulazione è la tua, Cla, bella, forte, chiara e tante cose. Va bene, se interessa qualcuno in vendita questa radio. Cos'è quella? 440. Ah, se la sta vendendo Massimiliano? Sì, la sto vendendo. Bene, prezzo? Prezzo è 450 euro col microfono a tavolo. Con l'MC60? Con l'MC60 no, con l'MBP5 codificato praticamente cable, diciamo, attacco 8, alimentazione direttamente dalla radio. Non sto usando il 60, io sto usando quei microfoni. Vabbè, chiederò. Prova a chiedere. No, io sto usando l'MBP5 che prende l'alimentazione, ci l'ha fatto Fabrizio, sto microfono nuovo dentro la scatola. Se interessa qualcuno, mettetevi in contatto con lui. Ok. Vediamo un po'. Mi ho chiamato Eugenio, gli ho dato priorità, ha detto che in questo momento non può. E allora arrangiati. Vabbè, capita. Io mi ho venduto domani mattina, lo spedisco il Saturn Echo, 300 euro, ho preso un 140 a 200. No, ce l'ho 140. Ce l'ho tutte e quattro io il K, quindi no, non mi interessa il resto, ho dato tutto, ma quelli me li sono tenuti. Va bene, avanti Gianni, quindi stai cercando un vintage a pochi soldi? No, non a pochi soldi, quello che ci vale, cioè non è che si può pagare un vintage 300 euro, allucinante, no, no. Io ho visto che stanno vendendo anche quello che ho io, il Saturn Echo, lo stanno vendendo 380, 400 euro, ma di che altro già meglio? Sì, ho già, l'ho venduto 300. In Saturn Eco? Sì, lei era 555, mi hanno fatto il bonifico stamattina presto, l'ho messo adesso in scatola. Cappaga. E dove l'hai messo? Come dove l'ho messo? Per venderlo, dove l'hai messo? Su Subito, dove l'hai messo? Su Subito, come l'ho messo? Mi ha contattato in un attimo, contrattato, mi ha detto no no, dammi le coordinate e dice che ti faccio il bonifico. Va bene così, dai. Che fa, te non mi hai detto manco che ce l'avevi tu, ma quello lì che cos'è? Quello 100 watt? No, è il 555, sempre come il Saturn Echo, non è 100 watt, non è quello che ha tutti quanti i tastini piccoli. Ah, vabbè, dai. È come Saturn Echo, ma non c'ha il frequenzimetro, mi pare quello. No, no, no, ce l'ha il frequenzimetro, è ugualmente con Saturn Echo, preciso, preciso. Cappaga, poi vabbè, poi sono stati marchiati le Skyrim, l'ha fatto, però senza frequenzimetro, l'hanno copiato molto Saturn Echo, molte case l'hanno copiato e hanno messo gli stessi pezzi del Saturn Echo. Però in tanti tipo le Skyrim è molto bello, cioè se l'ha messo il frequenzimetro, quello dorato è bellissimo. No, io ho messo in vendita quello, il Pluto. Il Pluto, mi sto verniciando i coperchietti adesso, che quello parte dopodomani. Sempre di Antonio, però quando c'è roba in vendita, magari la vendi qua, scusa. No. Già, non ne voglio rotture di balle. Ah, vai, stanno sempre tirando il prezzo. Ma c'è quanto mi hanno offerto a me per il Rush, eh? 120 euro, però per 120 euro ti faccio avere l'uccello e poi me lo rimetto a posto. Io per 120 euro neanche quello gli avrei fatto vedere. Cazzo di che ho bisogno di remogine, ma non ti nanni. Ce n'è di Rush in vendita 250, 230, 240, 200, 210. Cazzo, 120 euro, ma non ti nanni. 120 euro non compareci manco una 48. Io non regalo più niente, tanto mi sono rotto le balle a regalare. Capito? Non ci voglio guadagnare perché l'ho pagato quella cifra e quella cifra lo, chi lo vuole, lo paga, lasciamo rimanere dentro l'armadio, lasciamo a futti, non mi domandando nulla, cioè, a secondo me delle lastre devi comprare a prezzo pieno, quando vendi tu stanno sempre tirando, tirando, tirando, ma non capì. Lo so, è per quello che io qua non ho più venduto niente, sono una persona corretta, gli apparecchi li ho funzionanti, gli ho riveniciato tutti quanti i coperchi fatti a regola date, gli ho dato prima il fondo, l'ho levigato con la 1200, gli ho dato il colore, io questo ragazzo che mi ha chiamato è un militare che fa servizio alla protezione civile e ha detto che gli serviva un base per la sede della protezione civile, gli ho detto guarda, l'apparecchio l'ho mandato le foto dentro, immacolato, i suoni metatori originali, i trimmer mai toccati, c'hanno ancora la colla. Così devo essere radio, sì, io c'ho il polma che mi ha dato il 7000 Dix, che mi ha dato Gianni, che è meglio del Zodiac 5024 perché l'ho avuto, molto meglio, molto più selettivo e poi c'ha più cose, capito? C'ha più cose perché c'è lo strumento che puoi regolare sia i watt, sia le stazionali e il modulometro, c'ha tre posizioni, c'ha il Mickey Gay che quello non ha, c'ha il Delta Tune, c'ha un sacco di cose in più, capito? E uno mi ha telefonato, lo faccio nome, mi ha detto 70 euro, 70 euro, ma poi cosa? Per quel polma che c'ha, cazzo, esce molto bene, vai, avvia, te vai. A parte il fatto che non lo sto dando, ma quella è una radio a 120 euro, non te la rogo a 70 euro a te, vai, cocca di. Ma qualcuno di qui però. Se lo vedi, fa il prezzo, io ti dico, se lo vogliono. Che cosa? Il polma. No, no, vendo già, no, vendo, ma ho preso apposta per fare due chiacchiere, io non c'ho più niente, capito? Ho venduto tutto, Gianni. Io ho fatto tutto in blocco, un radioamatore di Treviso, si è portato via tutto, non c'ho niente. Questa è la radio di Massimiliano. Non c'ho più niente io. Mi sono tenuto solo un capo e basta. Che tra l'altro è anche staccato perché la scrivania è completamente vuota, lo sa anche Antonio. E quindi se voglio fare due chiacchiere c'ho una radio seria, perché quella attacca 220, gli attacco l'antenna e sto modulando. E va molto molto bene, ma veramente bene, c'è un'ottima ricezione, un'ottima trasmissione, ma è nuova, nuova, nuova, è luce, le cromature sono luci, a me piacciono così le radio, non mondezza. Scusami se mi permetto, ma come mai hai preso questa decisione quando ti stavi facendo la parte vintage eccetera eccetera, tutto entusiasta, adesso di colpo le ho venduto tutta la parte amatoriale, vintage ce li ho tutti, ho venduto tutta la parte amatoriale, comprese anche le antenne che dobbiamo smontarle con Andrea. Oh dai, mi vado al telefono, scusate. Sì, vai, anzi, tranquillo. La gente non le vuole pagare le cose, perché capirà che quell'apparato lì 450 euro l'ha già pagato, lo sta vendendo 350 e ti offrono 300 al massimo. No, non lo do, per 50 euro rimane a casa, non te lo do, tanto a me non mi chiede da mangiare. Se mi rompo le scatole lo rimetto in stazione e lo uso, l'ho tolto dalla stazione per metterlo in vendita, però se non lo vendo lo rimetto in stazione, c'è una radio che è una bomba. Infatti hai fatto male, quando siamo tutti in un canale che non ci sono splatter, lo prendi e lo usi, cosa te ne affutti? Oppure te lo lasci di pronto come ce l'avevo io, quando c'è propagazione del 45, spegni tutto, ti accendi quello, vai e ti diverti nel canale 45. Ma te lo sto dicendo, io non scendo più a compromessi, perché ho regalato troppe cose, regalato nel senso che ho comprato a 200 e venduto a 100, giusto per fare cortesia. Adesso basta, perché mi sono accorto, quando compro io, tutti a prezzo pieno, che siano assaggiati, che siano fuori, e allora gli dico basta, adesso quando le cose le vogliono da me, le pagano come dico io, non scendo manco di una lira, e se no rimangono lì, ce ne affutti. Sono così, tirano il freddo, fanno, si abitano in luce, non vedo male da mangiarsi, adesso ne compro, invece che dare ne compro, me ne affutti lì. Quelle che ho non le do perché sono tutte radio, se tutte radio escono bene, tutto gatto. Mi stavo dando problemi di 980 ed era lo spinotto che cosa ne so, cosa sia successo, si mollava e che girava, poi ho detto che strana tira di spinotto, perché c'era di quelli aerei, no? Girava e scendeva quando modulavo e poi si inseriva la portata da sola. Ho preso, l'ho smontato, cos'era? Ne ho perso la bittina, quella piccola, quella che tiene praticamente fermo le cose, ho preso quella bittina lì e per vedere come girava, toccava un filo con l'altro e faceva la massa. Ho preso, l'ho smontato, ho cercato una di quelle bittine, che meno male io ho una calamita dove tengo tutti gli attrezzi, c'ho una calamita e si attaccano tutti i disegni. E ho trovato una bittina piccola di quelle cose che si mettono negli spinotti. Le l'ho messa a casa, perfetta ci andava, ho avuto la fortuna, guarda. E sono riuscito a metterla. E lo so, quelle bittine sono molto utili e indispensabili per l'attacco del microfono, perché altrimenti ti si muove la ghiera e può fare falso contatto, può fischiare, può fare. Bisogna tenerle sempre allerta, capito? Ma è così con i lineari, uno voleva il RM Italy, sì, certo te lo do, mi dai 300 euro, te lo come, ma hai comprato nuovo, quello che c'ho io, 380 euro, stai risparmiando 80 euro nuovo dentro la scatola, no, e allora rimane lì, magari si affutti, l'ho comprato con i lineari, l'ho comprato con un guru. Non sai cos'è, la gente tira il prezzo, però alla fine poi ti senti preso in giro, perché tu l'hai pagato un tanto e non puoi darlo molto di meno, qualcosa sì, ma non molto. Io lo stavo dando 100 euro in meno con l'apparecchio, mi hanno tirato il prezzo e 50 euro non me ne puoi scalare, no, non posso perché già te lo sto dando sotto prezzo. Infatti è così, anch'io l'avevo pagato 400 euro, l'ho venduto a 350 perché vabbè era un amico, povero Giampaolo, capito? E poi gli ho ritirato la T250 e alla fin fine poi siamo andati quasi alla pari, però queste cose si fanno con chi veramente sai che le puoi fare, gli altri non me ne ha fatti nulla, anche con quello che ho venduto tutta la parte amatoriale. È un animatore che mi ha comprato praticamente tutto, mi ha comprato 2HF, 2VEU basi, un altro base a parte, monobanda, mi ha comprato un sacco di roba e chiaramente l'ho dovuto trattare bene, ma ho fatto una spesa di più di 2500 euro. Di che punto che cosa ti ha lasciato? Un K e basta. Nulla, un K e boh, il 430. Perché 4,40 non mi interessa. interessa, non mi interessa più. È una radio che dà troppi problemi, 4.30 lo lascio spento, settimane e settimane lo accendo ed è sempre a posto. 4.40 se non accendi tutti i giorni è un casino, infatti ma se andiamo sostavendo anche per quello, perché non lo usa e quindi è impegnato un bel lavoro. E quindi non vuole rischiare che ci rimetta quattrini. Adesso che è a posto, quello l'ha tutto revisionato Fabrizio, perché gliel'ha fatto avere lui, quindi si fida e lo dà così. Capito? Me l'ha portato oggi, mi giusto per fare una cosettina, ma una fesseria ce l'ho, un problemino nel microfono normale, capito? Quindi devo provare con la radio sua, me l'ho già messa tutta a posto, ci sono dei fili da saldare, e l'ho rifatti, adesso sta quando l'ha lavato stamattina, alle 8, praticamente sono andato a prendermelo in macchina, che c'è la coppia delle chiavi, per non tornare a scendere a rimetterglielo in macchina, metto già passo io e passerà adesso tra un po' a prendersi. Capito? Vabbè. Già lo troverà qualcuno. 4.40, basta chiederlo al cantino, perché se lo vuole, magari lo compro. No, io non chiedo niente a nessuno. Io ho detto che lo sta prendendo, poi si arrangia lui, non voglio mettermi in mezzo alle cose degli altri. Se è roba mia, io mi sono interessato della roba mia e basta. Questo addirittura si è comprato anche le direttive, adesso sarà un problema, adesso deve venire Andrea a smontarle e dobbiamo tutte segnarle una per una, ci sono i manuali, rimetterli dentro le scatole di cartone e poi passerà Bartolini a prenderle. Capito? E via, tutto qua. Niente, vedi che sono anche un po' assente dalla 27, non ne ho più voglia già, mi sono un po' stufato, seccato, così, non ne ho più voglia. No, la scrivania è libera, non c'è più niente, ti mando la foto, ti metti a piangere. Non c'è niente, nulla di nulla, niente di niente. Anche io volevo fare l'impianto della macchina, ma adesso ho visto che c'è poca gente e mi è passata la Puglia. Volevo fare l'impianto, portarla con l'elettrauto, fargli fare una cosa ben fatta, come si deve, con fusibile, con tutto quanto, fatta bene, passato bene il filo, eccetera. Però poi ci ho ripensato, perché poi ci sono adesso queste staffe che si mettono sia nel cofano, sia nello sportello, le puoi mettere a tutte le parti, che sono meglio della base magnetica che ti graffia tutto. Volevo fare un impianto, ma ho visto che c'è poca gente, cosa lo faccio a fare, che poi le tre macchine non vedi più con KV. No, ma ciò calerà, vedrai. C'è stato il boom del Covid-19, hanno tutti rispolverato le radio, fra un po' spariscono di nuovo tutti. Vedrai tu, soprattutto adesso l'estate, capito? Io ce l'ho quella staffa, Gianni, ce l'ho quella staffa. Ma tu c'hai la grondina leggermente? C'hai leggermente di grondina? No, è liscio, non ce l'hai grondina. Questa è, non so come cazzo si attacca, però me l'avevo presa per la 600, me l'aveva fatta avere un amico, però adesso nella 147 non va più bene, poi non la metto io, l'avevo messa per le due, le U, capito, tutto lì, non è, ti mando la cosa, la foto della, come si dice, della base, ed è dove ho messo il 440, dove sto modulando adesso. No, vabbè, tanto poi a me quegli apparecchi non interessa, poi da solo roba della 27, non ne voglio sapere, perché già quando c'è il 140 tutti quanti rompevano le scatole, bassa, alta, almeno così sono tranquillo, modulo tranquillo senza stare abbassando, alzando, e stai trappando, e stai qua, e sei là, mi facevo vedere là dalle palle. Perché tu non mi hai mai ascoltato quando io ti dicevo guarda se lo dicono a me, il mio è regolato, e così esce, se c'è qualcuno che non le piace, che troppo alta si mette i cosi, cosa vuoi dire? Io non regolo niente, noi quella avevamo regolata, siamo stati una mattina regolando, un pomeriggio, regolando quel microfono che era una canonata, capito? E poi per fare che cosa? Parlate, immagino di la radio, ma me ne ha fatti nulla. io ascolto, cioè, sto uscendo male, mi dicono guarda stai uscendo male, fai qualcosa, ma che qualcosa lì, che uno a me mi debba dire quello che devo usare, abbassa, tina, molla, ma diciamo, ognuno a casa sua fa quello che le piace. Infatti, se non è che stai uscendo male, se stai uscendo male è giusto che te lo dica, se stai uscendo gracchiante o roba del genere, come lo vestiva Fabrizio l'altro giorno. Entrato, stavo gracchiando, glielo detto, l'ha regolato, sì, quando è riuscito a metterlo a posto, quello fa 3.30, quello di cose, di Riccardino. Ma c'è quando stiamo facendo controlli, è giusto che ci diriamo. Ci diamo una mano con l'altra, ma che tu hai, mi dici, oh abbassa, tu vai, ti misuro, ti faccio, abbassa, tira, molla, come la fai scimmine dal guru? Magari non lo fanno manco per male, capito? È una questione di perfezione, è il carattere, mi piace essere perfettino nelle cose, è per quello che te lo dice, capito? Perché lui misura, fa... Perfettino di cosa? Più perfettino di me? A me mai nessuno mi ha detto in tutta la mia vita di radio che sono uscito, che esco male di radio. Io prima di entrare mi controllo e mi faccio la sorge, mi memoricano gli altri. Quindi questa storia deve finire, ma non solo per me, ma per tutti, no? Puoi stare, non c'è più questione, non si parla di altro, cazzo bassa, e cosa stai usando, e cosa stai provando, e quello che microfono è, e che cos'è, ma vivi e lascia vivere, ma modula, fa vita, fai questione, cosa c'è in chi mi sempre rigurendi e fendi, mamma mia come sto. Ognuno ha il suo modo di fare, di cose, di agire. Io già vivo, lascio vivere, non mi interessa di stare a dire niente a nessuno, non mi frega di niente, mi interessa a te passarmi qualche ora così un po' tranquillo, che non mi facciano incazzare, perché se mi incazzo poi mi tocca spegnere tutto il tempo. Quando stai sereno, facendo questioni serene, come tu mi hai detto, la stai diventando notturno, ma la notte ci sono dei questioni che sono piacevoli, si parla di tante cose, e allo stesso tempo c'è silenzio, non c'è problema, è bellissimo. No, ti cazzo, tutti dini. Allora, fra, già te, no, io te l'ho detto così perché non ti ho mai sentito, no, io lascio le radio accese, la radio accesa, ora mangio giù. La radio accesa e poi spengo, vengo a spegnere proprio per quel problema lì, capito? Quindi se mi sono rotto le palle, allora perché quella mi sono tenuto il 430 che è molto meglio. A me non mi crea problemi. Guarda, te ho mandato le foto là. C'è una risposta di un amico che gliel'ho mandata. Mi ha detto che disperazione. Quella base è tutta vuota. Vabbè, sono decisioni che ho preso, non me la fotti più nulla. Va bene, una e boh. Una per fare due chiacchiere e poi se voglio parlare col baracchino lo prendo, entro l'armadio, lo attacco e parlo. L'altro giorno stavo usando il Polman, stavo usando il DAC, stavo usando il coso, il lui, stavo usando i baracchini, già ne ho. Radio mi sono rotto, intanto per tenerle ferme e non usarle è meglio farmi i soldi, capito? E beh, Franco di Sosso. Poi ciao Claudio, ciao anche a Gianni. Ehi. Alla fine ne usi solo una, e poi quando esci bene, cosa tende a tutti. Quando, vabbè, è solo la tua storia di noi, perché potresti andare anche in altre frequenze, potresti anche entrarci, mentre noi no. Però, uno che dire che si è deciso così, sei tu padrone di decidere. Avanti Gianni! Hai fatto il giudizio, fra, senza domanda a nulla a nessuno. A casa mia potessi mi piace. Odio io che gli altri me debbano dire quello che devo fare. Sono stato sempre così. Ha già mandato il voto, ma una e boh. Manco l'elementatore, beh, nulla, l'elementatore è sotto, non si vede. Radio e computer, basta. L'altra base, vi, vabbè, devo mettere. Chiuda, finito. Devo anche togliere perché lì devo mettere un divano, un divanetto per guardarmi la televisione. Ehi, cazzo. Vabbè. Era bello quando era tutto pieno. Però, dai, ognuno decide di fare quello che vuole. E vuol dire che la decisione che hai preso tu è giusta. Molto giusta, molto. Anzi, ho aspettato anche troppo tempo. sono nato qua, voglio morire, a me dice fate i lati dall'altra parte, non mi interessa niente fare. Non voglio, per carità. Però le mie decisioni sono queste, le ho prese, finalmente ci sono riuscito. Ormai Biubi da me avrà già fa così a gene, a vestire quattrini in tutte quelle cose. Ma lascia perdere. Aspetta, se Massimiliano deve venire a prendersi questa radio. Ecco. Vedete, la IAI su quello, ve la chiedo. Ma questo è il K di Massimiliano. Ma quella che ho visto io sul balcone? Quella che tu hai visto? No, quella è la mia. Quella è il mio, quella è il 430. Ah, ma non pensavo che era quello lì, ne ho capito. Va bene, va bene, va bene. Sta uscendo bene questa la radio lo stesso. Sì, non gli ho fatto niente, c'aveva il microfono normale che gracchiava, che faceva, e che ha detto, vabbè però portami la radio perché poi ci sia la radio, non lo so. E invece era il microfono. Ma quello me l'ha portato, adesso poi gli ho attaccato il suo microfono perché era qua, adesso lo sto portando via anche quello, sto usando l'MB5, quello con l'attacco 8, alimentazione diretta dalla radio, capito? Esce molto molto bene. Sì, sì, l'ho sentito anche da Massimo, l'ho sentito, esce bene anche lui con quel microfono. Vabbè, adesso lui c'ha il 60, però il 60 se lo tiene, capito? Te l'ho regolato io. Ecco, bene, vera. Io sto guardando un film, mi sto guardando. Già, ti rispondo qua, dov'è? In tasca ce l'ho, in tasca. Anzi, non ce l'ho neanche in tasca, in banca ce l'ho, la stazione radio, capito? A chiamami tu pareggio, la moto nuova, ce l'abbiglia in cuore al radio. Che cavolo? Ah no, ma che? Ma so quella che ho e mi compro la moto nuova. E la radio, basta. Basta con il radio. Forse sono investiti meglio i soldi. No, ma guarda, ti giuro come fratello, se tu, allora, delle radio che io avevo, i due HF grandi, non quelli piccoli, i K, i grandi, i come Iesio, se hanno, da quando li ho comprati, in ore, cosa debosso di 30-40 ore di trasmissione, è troppo. Perché non li usavi, magari usavi sempre lo solito, usavi, perché naturalmente il 430 esce molto meglio in 27 delle altre radio, è ovvio che quelli là rimanevano fermi, li tenevi solo per consumare le correnti, per riscaldare, per fargli scaldare e basta. No, Babidesia, anche quelli V e U, i base V e U. L'ultima che ho comprato, ti ricordi che l'avevo mandato la foto a te, quella l'ho accesa tre volte, 910H, via, venduta fuori dalle balle, 275H, 820H, 780, tutti in base, tutta la parte amatoriale non c'ho più niente, tutta, faccio un veicolare V e U, che è dentro l'armadio, cando una giugana la stendo, cando una giugana rimane dentro l'armadio, ma lasci una frutti. No, mi compro una moto nuova. Beh, quelle frequenze non ti hai lasciato niente per entrare in 40 e quelle le altre bande. No, nulla. Per ascoltare, per fare due chiacchiere, c'ho la T230, quello non l'ho fatto. Adesso devo fare uno spazietto, metterlo a fianco al 430 e gli attacco l'antenna HF praticamente quando devo fare qualche così due chiacchiere, niente di che, e boh, tutto con una radio faccio, tutto con 430 faccio in HF, cando una giugana baromi, se no non me la futti nulla. Allora vabbè, lascia il 430, ce l'hai una. Sì, solo quella. Solo quella, che potrei anche fare una cosa, perché c'è un amico che lo sta vendendo, prendere un TS2000 e il quadribanda e fare HF, VHF, VHF, 50 mega, tutto con una radio. Ma non ne voglio va proprio, non me ne affutti nulla. Ecco, un TS2000, voglio 1200 euro usato. Per 900 euro lo vuoi dentro la scatola? Se l'ho visto in tanti punti, non è che mi interessa, a me non me ne frega niente, però ho visto 1200 euro e tutti male puro. No, questo è nuovo dentro la scatola, un carissimo amico che non posso dire chi è, lo sta vendendo perché tanto non lo sta usando e deve andare fuori per lavoro. A me me l'ha proposto e io dice gli uomini, non mi interessa, non lo trovo, perdonami ma non te le prendo perché intanto non ne uso, non me ne frega niente, a me piace la 27 e boh, capito, e basta, boh, non ne voglio mettere lì di bande, controbande, banda musicale, altre bande. Ci risentiamo Claudio, le ultime parole famose, come sempre. No, già, io un bando notturno non me ne frega più niente, ma è già da tempo che non mi interessa, però non avevo... non avevo lo stimolo veramente. Poi è capitato un discorso con una persona e alla fine mi ha messo in contatto lui con questi di fuori, con questi di Arifidenza, Fidenza, e ho venduto tutto, ma in giro di una decina di giorni, 15 giorni. Cavagano, vabbè, fatto bene. Se hai preso questa decisione vuol dire che avete le tue motivazioni. Sì, già lui aveva già le mie motivazioni, non è compagno, la moto nuova. Ma non ce l'hai la moto alla strada, sì, non ce l'hai più. Sì, verso quella mi prendo un modello nuovo. Ah, e cosa ti prendi? Il nuovo Hornet, il 1000. Cappa, e i dolori là, pensa anche a quello. Già, 10 kg ho rimanito per portare la moto, ancora devo scendere, altre un paio di chili. E poi mi posso piegare bene per portarla, prima non ce la facevo, c'avevo un po' di mal di schiena. Tu mi vedi dall'ultima volta, sono succhiato. Ehi, ma c'hai i dolori sempre, la moto, cazzando le moto, i dolori devono entrare. Io non la prendo con umidità, no? Però ce la stavo prendendo adesso, anche stamattina l'ho presa. Se non c'è freddo, adesso inizia questo venticello caldo, è piacevole, capito? È piacevole, va bene. Ui. Caro, ma io ci mando un messaggio a Massimiliano a vedere. Ma tu usciva alle 4:30? Non lo so, questa è bella mio. Questa è una nuova quella di Massimiliano. Questa gli ha fatto avere Fabrizio, nuova nuova, testata da lui, veramente ottima. Io ho un bando laterale, l'ho provata, non l'avevo mai vista. Veramente bella, nuova, veramente, una bellissima radio. Cos'è quella? 4:40. Ah, 4:40, dov'è che dai della giornata 2 che ci ha colto? No, questa era di un'altra persona. Per farti capire era di quello che ti ha dato l'alimentatore, capisci a me? Ah, sì. Ok, cazzo. L'ho capito anche. Vabbè, ma per non fare nomi già, se no va bene. Nuova anche perché non lo usava mai, capito? Non lo usava mai. Ha imbagliato antenna, ha bruciato i finali. E quindi ha messo il finale nuovo, ha dato un bel allineamento, ma è nuova, perfetta, veramente, bella radio. Cazzo. Sì. È stata tutta roba nuova qua. È tutta roba ben messa. È più maniaco di Gianni. Chi? Che gli ha dato quella radio? No. Io sono Maria, io spolvero sempre, tutti i giorni. E adesso ma anche lui già si dà da fare, là. Ma più di me non lo so, perché io gioco proprio fissato, sempre col pennellino, con un gozzo, lui. Oggi ho fatto l'operazione, oggi mi sono smontato tutto l'alimentatore. L'ho soffiato con la bomboletta di aria, la ventola, tutta quanta l'ho sterrata, l'ho fatta uscire tutta sterrata, che se no mi mangia casino. E poi ho messo quell'olio che usavate voi, che me l'ha portato Marco, quell'olio che usavate per gli ingranaggi. Dai, che mi ha mandato un messaggio a Massimiliano che è vicino ai carabinieri, sta arrivando. Perché chiaramente non ho pagato io, è arrivato il corriere e ci ha fatto via tutto. Quando gli è arrivata la roba, perché abbiamo fatto un celere 24 ore, ha voluto, assicurato. Quando è arrivata la roba e ha sballato la radio, io gli ho mandato un 780 TS780 B-banda base della Kenwood, V e U. mi ha telefonato e mi ha detto: ascolta, a me non mi prendere in giro, ma quella radio l'hai comprata nuova adesso? Ascolta, guardati bene la sigla, guardati la matricola di dietro, quella radio è del 1998, mi ha detto, è una cosa spettacolare, che ci sia un graffio, che ci sia un graffio nelle radio che gli ho mandate, un puntino bianco. Guarda, gli ho detto, scelte la mia radio, vedi, trovi un puntino, un graffio, me le rimando indietro, mi accodo io al trasporto, hai capito? E noi mi sono stesso, adesso questo alimentatore faceva casino, l'ho smontato, l'ho pulito, l'ho fatto e ricattato. E adesso non fa lo stesso casino, ma ne fa di meno, prima ne faceva un po' di più da me. Oh, scendo un attimo da Massimiliano, va, ci sentiamo dopo, devo attaccare la radio. Ehi, l'ho detto, la si sente, fra. No, lo sento. Non è fatto ogni tanto quel lavoro lì, io ho il compressore giù, ogni tanto a una volta al mese li apro e li porto giù e mi faccio con il compressore piano piano. E ma il compressore è andato pari, io invece l'ho fatto con l'aria di quelle delle bombolette. Solo che Marano era attaccato davvero al dubbio, allora ho preso questo pennellino, l'ho tutto quanto prima rimosso e poi con l'aria e la giocava tutto. No, già, non li davo, sono un regolatore di pressione, e con l'aria con il gancio di sopra, sono un regolatore di pressione, io la regolo tutto come nella bomboletta. Ah, ecco, va bene allora. Io la bomboletta l'ho terminata stamattina, adesso sono andato a cercarla dove l'avevo comprata e non ne avevo. Adesso andrò da Brico, da qualcuno, perché sono molto utili quelle bombolette. Per chi non c'ha il compressore, io già ho quell'affare per gonfiare, scusi, materassini, però è elettrico, è a 12 posti, ma è un casino, tocca attaccare l'alimentatore, c'è un alimentatore da 2 ampere, 7 a coperchio, ma funziona benissimo, è della GBC. Il coperchio ho preso che cazzo è della GBC perché mi sono andato a comprare una bomboletta per verniciarlo, l'ho fatto replicato bene, tutto là. Guarda, sfruttarlo e questa bomboletta gocciolata, guarda, mi sono che cazzo è della GBC. Da vicino l'hai verniciata già. Cosa? Da vicino l'hai verniciata. No, so verniciare io, guarda, ne ho fatto 1000 di coperchi, ma 1000 però anche di apparecchiature grandi, tipo il gas, eccetera, ne ho fatto tantissime, non mi è mai uscita male. Questa era difettosa la bomboletta, come tu premevi, gocciolava da sotto al tappo. Capo, e allora. Ma stai subito da. Lo ripulisci e lo rifai. Sì, vabbè, dicevo che cazzo mi sono di normale. Tanto era la macchina, perché tanto lo usavo solo per fare le prove. Quando mi porto gli apparecchi in cucina, che non c'ho antenna, non c'ho nulla, per fare le prove uso quell'alimentatore lì, capito? Cazzo, no, io per fare le prove c'ho un coso, l'HP12, quello a trasformatore, quello piccolino. Io ero nato uno a Fraco, bello, di alimentatore, dell'Italia Electronic. Quello lì c'ha dissipatore dietro e coso, ed è 10 ampere, ma 10 te li dà tutti, Non è come quelli che scrivono 10 ampere e poi te ne danno 8, 7, capito? Questo qui 10 te li dà tutti quanti. Tipo questo che ho io qua, quello da 50, che è quello dell'elettronica CIP, che cazzo è, compreso che marca è? Italia Electronica, quello lì è bello. No, sono belli, questo è bello silenzioso. Quando scalda si aggancia la ventola un po', sta un po', non bella fredda si rispetta. Cappagamma, sì. Anche il mio fa così, il mio se ci metti troppo carico si spegne, va in protezione. Non devi caricarlo prima di accenderlo, prima devi accendere l'apparecchio, l'alimentatore per accendere gli apparecchi, se no se trova il carico prima di accendere a lui, boom, si spegne e va in protezione. Sì. Vabbè, prima vogliono accendere sempre gli alimentatori. fui facendo da parecchio, naturalmente. Poi io, come l'ho messo adesso, è perfetto. No, ma a volte frate, dimetti che l'apparecchio è acceso la notte, magari vai sopra e tu la ciabatta, ti dimetti che tutto quanto è acceso, tanto la ciabatta è tutto rigenerare e spegni tutto. Poi quando vai a riaccendere si spegne perché magari trova il carico, capito? E infatti io mi succedeva a me, no? Quello che stai dicendo tu. Perché ce l'avevo qua vicino il coso generale, ce l'avevo, adesso l'ho preso e ce l'ho messo in fondo, ce l'ho messo in alto, ce l'ho messo, in modo che il primo che spengo è sempre l'alimentatore. Io adesso spengo tutto quanto così, ma a volte va giù sopra, bravo. Non so come fa con la seconda, quindi chiudo direttamente dalla ciabatta e via. E infatti, sì, succede, succede quando c'è il sonno, sì. Che ha fatto? Vabbè, piano piano, datomi uno, diciamo un baracchino solo, gli altri da tutti scaccati, uno giù, voglio già ne vai, datomi tratti uno giù. Ma io ne ho lasciato quattro, adesso ci rimetto anche quello là che avevo messo in vendita, lo rimetto in funzione, magari si affitti. Tanto ti rendi un bridge, ma ti nanni, me lo vedi 250, me lo vedi 300, no, io ho scritto 350, 350 lo vendo, faccio pagare un 450, se permetti. Ma tu quello modificato stai vendendo? Quello modificato, sì. Ecco, 350 non è, c'è gente che lo vende anche 500. Se l'ho pagato 450 io, quello c'ha tutto, c'ha poveri illuminati di blu, c'ha lo speaker illuminati, canali illuminati, poi c'ha il doppio modulatore, stilizzato sopra, cioè roba di roba, ha tutto, doppio modulatore, camera eco colt con effetto elicottero, cazzo, tutti i gusci. Ecco, e dove l'hai messo in vendita? Subito? No, l'ho messo su quei canali di CB, CB Lutti, Bisonchini, Continente, che hanno praticamente, ho scritto, il doppio, magari il doppio modulatore, ho scritto doppio e mi ha battuto solo doppio, no? E hanno fatto le battutine, che cosa vuol dire, questo e quell'altro, ho detto se sei intelligente, gli ho scritto, dovresti capirlo da solo cosa vuol dire. E no, perché non ho capito cosa voglia dire doppio modulatore, odulatore, ho scritto invece che modulatore, odulatore. Ho detto guarda che è stato un errore di battuta, non è che non lo so scrivere. E Luca gli ha scritto, professore, non so che cosa, Luca gli ha scritto, l'avevo dato mattana. E poi gli ho scritto, siamo qui per condividere la stessa passione, non per andare a correggere ciò che scrivono gli altri. E cazzo di individuo ho sbagliato, senza nemmeno prendere la parola, se no avrei dovuto andare in quel paese. E poi sono di poteva leggere il suo servizio, e dico vabbè, mercatino, dove cavolo è questo, che cosa è? Allora, si intitola, mi sa, CB degli anni 70, 80, aspetta te lo dico con sicurezza, lo vai che te lo dico. Allora è CB con lo spirito degli anni 70, 80, avanti, eccetera, eccetera. Ok, scrivi CP con lo spirito degli anni 70-80 e te lo dà, ti dà anche il mio apparato, te lo metto veramente. Con lo spirito tutto attaccato? Con lo spirito, con la voglia, come ti posso dire, con lo spirito degli anni 70-80, attaccato, lo spirito. Adesso provo a entrarci a vedere. C'è ancora, c'è. C'è ancora, vabbè Claudio, che fine ha fatto? Mi dà la pagina come che entri su eBay. Cosa? Mi dà la pagina e mi fa vedere tanti baracchini, come che entri su eBay. Su eBay, dai. Oh, ti fa praticare, deve dare la pagina dove c'è scritto CB anni 70-80, tu sfogli lì, lo fai andare avanti, avanti, avanti e trovi anche il mio. Non è su eBay ma su Facebook. Sì, adesso sono entrato, adesso già l'ho visto. Aspetta che sto cercando il tuo. Ma tu vedi il rosso? Il mio era il primo, poi l'hanno messo in fondo perché ne sono entrati altri, quindi man mano che entrano il tuo va più giù, capito? Chiaro, sì. E tutto deve essere in fondo, deve essere. Però per me è roba, Ma che prezzo ci avete messo? Sì. Il motogetto prezzo non le mette. A me il moderatore mi ha scritto di mettere il prezzo e dire di chi l'aveva preparato. Capo, bello, A che ne lo fai, vai? Visto, bello, sì. Aspetta. Anche il portalino, cioè tutto bello. È bello, bello. È tutto rifatto, tutto fatto bene. Infatti mi sa che mi tiro un po' con Don Renovi, se mi giro le scatole, lo rimetto qua. Ma io non l'avrei venduto una cosa del genere. Me l'avrei tenuto, perché sono sempre le giornate che lo puoi usare. Allora io ho intenzione di metterlo in macchina, no? Siccome in casa prende troppi splatter, quando vedete ti danno gli splatter. Allora ho intenzione di metterlo in macchina, comprarmi l'antenna, tutto quanto, e farmi fare l'attacco dall'elettrauto, perché questo problema che c'ha è un casino. Provo a mettere in macchina con l'attaccaccio di sigari, quello non si muove, manco la lancetta, ma a premere non si muove. Quindi c'ha qualche cosa, boh, non lo so, l'attacco ai sedi sigari non ce la fa, bisogna mettere l'attacco diretto. Beh, questa macchina di adesso non è come le altre di una volta, anche a me un giorno mi ho attaccato il VHF, mi ho attaccato il portatile alla accendi sigari e mi ha azzerato cosa del coso del contachilometro della radio, però del computerino. Vabbè, io adesso ho visto che la gente è meno, sto quasi cambiando idea, ho già virato l'antenna per la macchina, ma sto cambiando quasi idea, lo sai, fra. Uno, perché non mi piace la magnetica, la vorrei fissa l'antenna, e due, perché c'è poca gente e non voglio fare il buco soprattutto. Vai, non bucarli, allora non mi buco la macchina. Una volta lo facevamo con le macchine vecchie, perché erano macchine usate a seconda mano, lo facevo, ma va, da quando ho cominciato a prendere macchine nuove non è più fatto. Ma la magnetica già te la sei messa? No, negativo, mai messa sopra, mai. Neanche quella, perché ti gratta la capota. Allora, è vero. Ma io di magnetica ne ho una leggerissima con l'antenna, quelle estraibili, no, le tratti. Praticamente l'ho messa di quelle telescopiche e l'ho messa e andava bene, perché l'ho provata sotto casa, arrivava a Santiago 8, a Claudio eccetera, e ero senza nulla e con l'altro apparato. Con questo qua non c'è verso di modulare, perché secondo me è sempre l'attaccaccio di sigari che non ti fa uscire bene. Allora ho messo nella batteria direttamente attaccata, collegata alla batteria, sarà un'altra cosa sicuramente. Capo, no, ma io non ho più attaccato niente. Poi dallo scherzo che mi ha fatto portatile, ho paura che non mi ha fatto la centralina. Cosa ti ha fatto il portatile? Non ho capito. Il portatile mi ha azzerato, mi ha fatto il culo cosa dove c'è il computerino della macchina. Me l'ha oscurato, poi è tornato normale però. E allora la centralina stava disturbando la centralina, si ha fatto una cosa del genere. Sicuramente, infatti l'ho mollato, l'ho attaccato e non l'ho agganciato più. Sono delicati, ma le macchine prima si attaccava tutto, gli aspirapolvere, tutto li attaccava. Prima arrivano due vini alla batteria, tutto così, tirare il via Trento, adattavi e passi, lineare tutto, allora falla va. Lo so, perché io nell'acqua non ce l'avevo tutto qua. Io ce l'avevo tutto dentro il cassetto, mi lineare a fianco all'apparato, attaccavo il velato dentro, c'avevo un interruttore, prima ce l'avevo nascosto, dove c'è il coso del cambio delle marce. Però mi hanno tolto, mi avevano tolto il coso, il coperchio, dove c'è il cambio, avevano fatto un buco e ci avevano messo un interruttorino piccolo, piccolo, piccolo, con una lampadina rossa. Quando tu accendevi il lineare era sempre acceso, lo accendevi da questa spia. Come tu alzavi, si accendeva la spia rossa e c'era il lineare inserito, lo abbassavi ed era spento. E me l'avevo fatto cosa? Massimiliano Urdoni, Massimiliano Archimede. Capito. Vabbè. Tutte cose. Oh, sai che ci sono cose vecchie veramente qua. Guarda, c'è anche le toccai, roba vecchia, che ce ne sono che non avevo mai viste anche. Sì, ce ne ho visto, ma ce ne sono tanti di questi siti, non ne ho mai visti. Non lo so mai guardato. Aspetti, li do io un po' di nomi. Un altro è italiani modulatori DOC, poi amico CB, radioamatori CB. Aspetta, non corre, che stavo prendendo, sono fatto in tempo neanche a prendere ancora. Allora, italiani modulatori DOC. Poi se ti interessa CB, Galaxy, Saturn e Company, eccetera. Galaxy, Saturn, metti, poi non lo so, è una P puntata, non lo so che cosa sia. Poi c'è radioamatori CB, ripopoliamo la CB. Quello che fa le antenne. Vedi Gianni? Adesso sto usando il barracchino. Poco fa stavo usando il capo, adesso sto usando il barracchino, è sempre uguale. Vabbè, l'ho staccato, quello è di Massimiliano. Questo è il Polmar, questo esce veramente molto molto bene. Aspetta Claudio un attimino, cos'è Vanni? Ah, giocato là, bene sta andando? Capo, meglio così, va bene. E vedo il carro lì, Claudio dice a costa. Claudio, lo senti a Vanni? Già lo sento, non lo vorrei sentire, ma già lo sento. Bene, arrivo qua, dimmi come arrivo, là. Antenna Nova, Radio 5, non taggio mai inteso così. Scusa, ma stavo digitando una cosa su C. Da, vedi, esce bello, bello, pulito. Prova a staccare a vedere quanto incrementa. No, semmai devo passare perché... No, non sto uscendo molto, perché ho 4 watt di chilocardio. Dovrebbe averne 10 per dare la massima potenza. Guarda, questo è a C, 5, questo è 4, questo è 3, questo è 2, e così via. I giorni illudano, A1 Santiago 7 e A5 Santiago 9 più. Aspetta, dai. E più lo sai cos'è, è fatto in modo che non saturi, che sia bella la radio, intanto che tu esca 9.5, 9.10 o 9 lo siamo in affutti, l'importante è che sia pulita la radio, è fatto così. Bene, bene, stai arrivando, quanto sta arrivando Franco a casa? 9 più. Andare, ma il 507 era sempre fermo e in questi giorni diciamo che l'ho messo a posto, un lato fino a lingua, va bene così, non buttarlo era, costava un botto di soldi nuovo, l'ho visto e quindi ho detto ma tanto vale aggiustarlo, che comunque qualcosa ti sempre fuori. Almeno lì, l'avevo comprato nuovo, io l'avevo attaccato da 140 e ci ho bruciato le finali. E l'avevo volato a Gigi Vulcano con i finali bruciati e se l'avevo messo a posto. L'avevo pagato un sacco di soldi. È un bel lineare il 507, veramente è un bel lineare, capito? Vai Fra, mi ascolti? Sì Fra. Certo che ti ascolto, più basso è che ti ascolto. Sì, vabbè, questo c'ha ora, 10 watt neanche, dai. Già va bene. Io forse non 10 watt lo stesso. Sì, si arriva già anche a Grupi, quanto arriva in Divannino? Io ho abbassato, per non fare lì, perché sempre mi era sempre fissato a 50, e ho abbassato a 10. Ma va bene, per fare due chiacchiere, avanza, avanza. Va bene ragazzi, dai, adesso mi allontano un attimo, vi saluto, buon proseguo di questo. Ciao Gianni, mi stavo guardando Gianni con Massimiliano, questo c'è un uguale a questo, è di 7.150 euro in vendita. Per me è troppo 150, però 120 si può vendere tranquillamente. Quale? Il Polmar, questo sto usando io, il Dix, stavamo guardando su internet con Massimiliano e ce n'è uno uguale a 150 euro. Ho detto, ma 150 euro è un po' troppo, perché è una radio un po' vecchiotta, però nuova nuova come questa. Ho detto, io se dovessi vendere la vendo a 120. Ehi, ehi, faccio da amico. Oh, Claudio, anche se... capito, se la devi vendere per forza, a me non sai che la vendi. Esattamente, poi c'è gente che sta 10 euro non vende mai. No, ma non si può, non si può, Vanni, mi stavo parlando con Gianni poco fa, stati sempre di rendi, vendi, fai un prezzo, ecco lo fai equo, ecco, boh, basta, quanto è la valutazione? 200, dammi 150, e la vendi Roma Tesci, ma cosa stai lì a tira e molla? E invece stati di rendi e mollendi e la vini non vendi nulla, capito? No, io questa non la vendo perché me la sono presa e mi piace un bel, poi esce un bel bene. Però dovendo a vendere il prezzo è quello e basta, cosa sai chi vi attira a tira e molla? Tira e molla non fai più, lo fai a Bonuri, c'è una volta a tira e molla quando erano i minori. Va bene, un abbraccio a tutti, ci sentiamo, ciao, passo e chiudo, vai bra. Eia, ciao qua, ci sentiamo nel prossimo mese, avanti va. Eia, ciao, ciao. E mai così. Andare, ti ha detto questo, l'ho voluto riparare perché mi dava fastidio averlo così buttato. Ehi, caffa, mi prendi già? Sì, già, ciao Vanni, rientratoci. Oh, già, stavo scrivendo nel mercato, ma ti stavo scrivendo un messaggino. È una mia amica. E mi lascio un attimino e riprendo su. Sì, già, fai pure già, non c'è un problema. Poi, è quella che tu mi dovevi, la costa lì. Quelle malattie finali non funzionano in pratica, perché la Djibouti è 90, e quindi niente da fare, infatti non c'è il finale che scalda appena, ma non si vi annuncia, proprio non sia brutto. So, vabbè, se lo prendi là, intanto bisogna stare attenti ai tipi resi. Capo, infatti, fai aspetta, ho visto che poi protestare e mandare per indare i due. Sì, insomma, perché gli ho detto che aveva i fichi, i fasulli, e mi ha detto che lui, sì, l'azienda gli ha detto che, ma adesso non mi ha detto, ma guarda, buva, c'è una pedifra, l'azienda l'ha detto, va a cagare, va, ha detto, fanno tutto il buon ubriccio. Io. Ma tu guarda cosa ne bocca, perché se no... Fatto bene, spera di girarlo. Sì, è così. Tu pensa che io invece di oggi. Ma c'è quel 107 che sto... vabbè, c'hanno costo un pochettino più alto, che ti dico, però comunque ho speso 50 e passa euro. Però li ho presi guardando i feedback degli altri, quindi cosa gli ho fatto? Gli ho guardato i feedback degli altri, gli ho visto che ha recuperato tutti, tutti non si sono lamentati, gli ho detto che erano ok, e allora ci vuoi gli altri, capito? E d'altronde, vabbè, io dico sta mai 3 euro, immaginiamo che va, lasciamo perdere, va. Magari basta provare a dare a fare a me fuggiare, magari per a me. C'ha 25 watt nel sottolineare, capito? C'è il tirare a 15 watt, quindi di tirare i 25 watt bisogna tenere un bel, hai capito? Magari che sono 747. Allora, c'è monta il tirare da 15 watt l'uno. No, 747, 737, da 15 watt l'uno. Cavolo, si dà via di più. Guarda, se tu apparecchi, ti do quella sigla di originale, vai a guardarti le caratteristiche da originale e ti dà via le 15 watt l'uno. No, non lo so. No, siamo già comprendendo che le buche criminali quando devi vicini per questo devi vicini con 80 watt. No, no, 747. No, 747 ci consento. Vabbè, guarda, lei ci avrei già finito, che va, ma se lo vuoi dire, non è così, aspetta, adesso guardo. La c'è in logo 747. Allora, dimmi la massa come tira, di massa era, boh. Tira Midra mi pare che era chissù, Midra. Allora, 737, sì. Sì, 737, chissù mi pare fino alla velocità, ti abbai